140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Warner Music, Milano. Ricordi di una vita dell'amato Terrier LoLaBelle del marito Lou Reed. In Heart of a Dog, film e colonna sonora, si racconta Laurie Anderson. This film is about who's telling the story. So, as I said, sometimes. L'argomento di questo film riguarda semplicemente chi sta raccontando la storia, cioè io, ma non solo. A volte, quando racconti la storia del tuo passato, lo fai con la voce e con i pensieri di quel tempo. Ad esempio, nel film ho raccontato la storia di quando da bambina mi sono fratturata la schiena e l'ho raccontata esattamente come avrei fatto a 12 anni. That's a story a 12-year-old would tell, because you tell the story you can tell. Mi sono ritrovata come a 12 anni in un ospedale nel quale sentivo tutte le notti i bambini urlare, bambini che stavano morendo. E io mi ricordo che i miei genitori non venivano a trovarmi. Odiavo i medici, ma non era quello che mi colpiva allora. Erano i suoni di quelle notti, suoni che quando ho iniziato a raccontare ho avuto l'impressione di sentire di nuovo. Suoni che quando ti entrano in testa non te ne liberi più. So, anyway, David Foster Wallace said every love story is a ghost story. What does that mean? E poi David Foster Wallace ha detto che ogni storia d'amore è una storia di fantasmi. Cosa significa? Quando incontri qualcuno, sovrapponi le tue idee a una persona. A volte un uomo si innamora di una donna perché gli ricorda sua madre, ma lei ovviamente non lo è. Nessuno è una persona diversa da quella che è. E poi non conosciamo mai davvero l'altro perché gli sovrapponiamo un fantasma. They are, in a sense, you have imposed a ghost onto them of all the people you've ever met. This is his birthday, right? Today, David Foster Wallace. Oggi è il compleanno di David Foster Wallace, vero? Ecco, lui ora è un fantasma, forse un fantasma felice. Credo che lo sia, perché ha avuto una vita molto infelice. Probably a happy one, I would guess, because he had such an unhappy life. Oh my God. Questo è il mio corpo onirico che uso quando mi aggiro nei miei sogni. In questo sogno sono in un letto d'ospedale. Ed è come rivedere la scena di un film che ho già visto un milione di volte. Il medico tiene in braccio un fogatino rosa. Si china sul letto e mi porge il batuffolo. E una femminuccia annuncia. Non è bellissimo? Guardala. Avvolto nel fagotto, vedo il musetto del mio cane, un piccolo terrier di nome LoLaBelle. The words of my teacher, who was voted the happiest guy in the world. He is a Tibetan teacher, and he was voted. Nel film cito le parole del mio maestro tibetano, che è stato eletto la persona più felice del mondo dal Dipartimento di Neuroscienze all'Università di Madison, nel Wisconsin. Fanno così. Ti mettono in testa delle cuffie e per molte ore ti bombardano con suoni fastidiosissimi, sgradevoli, e misurano la tua risposta non in termini di insensibilità, ma di equilibrio, la tua abilità di sostenere se stesso in tutto questo rumore. So your ability to sustain yourself in this. So he was the guy who said, you know, you need to try to practice how to feel sad without being sad. È lui nel film che dice, devi allenarti a sentire la tristezza senza essere triste. È una magnifica cosa da dire. Ci sono tante cose tristi nel mondo. Siamo circondati dalla tristezza, dalle tragedie persino. E se neghi che esistano, sei un idiota. Le cose tristi ci sono e se le ignori, ti uccideranno. You are an idiot. It's there and it will come and kill you. Ma il mio maestro dice che la ragione per cui sei qui è perché tu viva dei momenti molto, molto, molto felici. Chiamatelo stupido, chiamatelo superficiale, ma siamo qui per vivere dei bei momenti. Call them silly, call them shallow, here to have a good time. She says, what do you call love? Well, I call it Harry. please, I'm being serious. What do you call love? Well, I don't call I'll tell you, one of the things I discovered about grief is that it's not there. Una delle cose che ho scoperto sul lutto dopo la morte di mio marito, Lou Reed, è che non l'ho davvero provato. Certo, ne ho sentito la mancanza, era l'altra parte di me e lo è stata per 21 anni. E quando hai un rapporto di questo tipo e l'altro se ne va, ti chiedi cosa rappresenti per te questa rottura. Ecco, io non ho sentito un vero lutto perché ho cominciato a chiedermi le ragioni per cui moriamo. You live, you have this great life and you're going along and then we all die. What's this for? Te ne vai dopo una bella vita, semplicemente muori. E cosa significa? Siamo qui solo per un momento e per che cosa? For what? So what my own experience taught me. La mia esperienza mi ha insegnato che la morte è letteralmente la liberazione dell'amore. Letteralmente questo. Quando la tua vita finisce, assume un'altra forma. Non credo nel paradiso, credo in un'energia che va avanti. E su questo continuo a farmi domande. Dove andiamo? Cosa vogliamo? Chi siamo? In questo film non do nemmeno una risposta, ma questo film ha solo tante domande. Not with any answers, because this is a film that has only questions in it. If you realize there's so many things like where are you going, what do you want, who are you? Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Laurie Anderson. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.